Radio Popolare presenta La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, il programma prevede di parlare di simulazioni in prima pagina, di mistica del lavoro e imprese di polizia, di cosa fa il governo quando piove e delle disgrazie del valore di scambio.